sognar, perché non sperar che io possa rivederti un attimo, mormorarti ancor che l'anima si illumina di te primo amor, di te grande amor, risento i primi baci trepidi e le tue parole semplici rivivono in me. Ma dove sei passione splendida? Dov'è che palpita il tuo cuore? Ti chiedo una carezza morbida, chiedo il dono d'un tuo bacio ancora. Perché non sognar, perché non sperar che io possa rivederti un attimo, mormorarti ancor con l'anima, riprendimi con te. Palpita il tuo cuore, ti chiedo una carezza morbida, chiedo il dono d'un tuo bacio ancora. Perché non sognar, perché non sperar che io possa rivederti un attimo, mormorarti ancor con l'anima, riprendimi con te. Perché non sognar, perché non